ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto Mondo. She's an unbelievable woman. A woman of tremendous substance and style, frankly. She has an amazing style. She walks into the room and she can take a scarf and do 15 things with it. Sulle parole di Donald Trump, ancora una volta, benvenuta Giulia Crivelli. Ciao, ciao Giulia. Ciao Alessio. Quella che è l'ultima puntata nostra della stagione. Della stagione. Possiamo e quindi dirlo. Non potevamo che insomma congedarci con le parole di Trump, che abbiamo visto ha concesso questa lunga intervista tre giorni fa a Fox News, che gli si è un po' ritorta contro perché il giornalista Chris Wallace ha fatto il giornalista, cioè ha tentato di riportarlo alla realtà dei fatti quando lui se ne allontanava troppo. Ci riprova con Fox News e qui... il brano che abbiamo sentito è cosa quando dicevo? Gli viene chiesto di Deborah Birx, che è l'unica donna della task force, è anche lei una scienziata, e qui è una gaffe che poi hanno sottolineato tutti nel commentare l'intervista, perché il parere è puramente estetico, cioè lui dice sì, è una donna di sostanza, ma poi soprattutto è una donna di grandissimo stile, entra nella stanza con, effettivamente è famosa per questi foulard, e riesce a combinarli in 15 modi diversi. Siccome parliamo di una signora che deve dare consigli, di una dottoressa che deve dare consigli non su come affrontare una pandemia, esatto. E questo si lega un po' ancora una volta alla reazione che sta avendo il governo federale, cioè la Casa Bianca, alla pandemia. Nel giorno, aiutami, mi è andata via la voce, ma qui c'è il tempo tropicale. Abbiamo avuto pioggione oggi, sì, qui a Milano. Perché ieri negli Stati Uniti è stata superata la soglia dei 4 milioni di contagi, 4 milioni e 038 mila il conteggio che fa la CNN in questo momento, sì. Ma la cosa impressionante è che da 3 a 4 milioni si è passati in 15 giorni, mentre per arrivare a 1 milione ce ne erano voluti 99 di giorni. Cioè, quindi, sembra che ci sia una ulteriore accelerazione. Accelerazione, esatto. In realtà il tema principale, se volete, come fotografie, come titoli sui quotidiani, sì, americani, dal Los Angeles Times al Orlando Times, al New York Times, persino al Wall Street Journal, è l'inizio finalmente del campionato di baseball, che avrebbe dovuto iniziare alla fine di marzo, ma proprio non è nemmeno partito per via del lockdown. Ieri sono iniziate le partite a stadi vuoti e quindi il Los Angeles Times, per esempio, titola: sembra più un parco per gli echi, quasi un parco scientifico di quelli dove si sperimentano è tutta una landa desolata che fa una certa impressione. Esatto. Poi Washington, e a fare il fischio d'inizio c'è Washington Post, ha una fotografia perché, sì, la squadra di Washington ha affrontato i New York Yankees e ha anche perso, perché la prima palla l'ha lanciata Anthony Fauci, devo dire, è rimasto col suo cappellino, la maglietta con scritto Fauci, 79 anni, un ometto molto in forma. L'uomo che ha detto stop all'America adesso che fa ripartire la palla non è male, eh? Sì, e questo è davvero, insomma, viene visto come, pensate se appunto il campionato di calcio nostro non si fosse fermato, ma non fosse proprio partito. Nel momento in cui riparte, naturalmente ha un grande valore simbolico. Allora Giulia, che altro? Ancora pagina americana o prima Se vuoi abbiamo un secondo, sì, audio, perché visto che abbiamo parlato un po' di questo atteggiamento che Trump ha verso le donne, di giudicarle soprattutto appunto prima di tutto dal lato estetico, c'è un grande tema e c'è un articolo sul New York Times molto duro, perché Alexandria Ocasio-Cortez, che è la più giovane deputata alla Camera dei Rappresentanti, lei è stata eletta nello stato di New York, è diciamo una democratica considerata estrema, e qualche giorno fa è stata apostrofata sui gradini del congresso con due parole che dirà lei stessa, anche se persino la CBS le ha censurate. Ieri in congresso ha stigmatizzato il deputato repubblicano Yoho, che l'ha così chiamata. Sentiamo la sua voce. And in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a f***ing bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. Insomma, lei ha detto appunto, io ve lo dico in inglese, chi lo capisce lo capisce, insomma l'ha chiamata fucking bitch, l'ha fatto davanti ai giornalisti e quindi ci sono parecchi testimoni, e nel suo intervento lei dice non mi interessa che si scusi o no, tra l'altro lui ha fatto delle scuse, una toppa peggiore del buco potremmo dire in italiano, perché ha detto vabbè sì, ma è la mia emotività, io amo le donne, ho delle figlie. E quindi e perciò insomma, però lei ha detto la gravità è che appunto un deputato, un rappresentante del congresso si senta in diritto di dire una cosa del genere a una donna, e così insomma rende come dà una specie di autorizzazione a tutti gli uomini a usare questo tipo di linguaggio. Do una risposta velocissima all'ascoltatore che dice siete ossessionati da Trump. Io personalmente ho tanti interessi in vita mia, tranne Trump, non ho proprio interesse da questo punto di vista, però no, ho interesse invece moltissimo per un paese, per come viene guidato, un paese dove ci sono 4 milioni di casi, dove l'epidemia di coronavirus sta esplodendo, ed è un interesse giornalistico ma anche forse dal punto di vista proprio umano per quel paese lì. E non dimentichiamo che tra l'altro se il vaccino arriverà probabilmente sarà anche con grazie alle multinazionali americane, se vogliamo anche grazie a questi accordi per lui ha fatto proprio un programma per accelerare il processo di sviluppo, quindi in realtà su questo tema, sulla pandemia, e quando parliamo di Trump sostanzialmente parliamo di questo, riguarda tutti, sono perfettamente d'accordo con te, non è un'ossessione. Mi sembra quando il presidente Conte ha detto che noi siamo morbosamente interessati al MES, no, è che il MES, i soldi ci sono e i soldi del Recovery Fund arrivano in aprile 2021, quindi abbiamo un interesse giornalistico a sapere cosa succederà, non morboso. Giulia, allora Europa, Gran Bretagna, con foto in questo caso di Johnson, che cosa fa con dei granchi in mano? Questi granchi giganteschi non lo sapevo, ma per fortuna li ha presi in mano con dei guanti che sono sembrano altrettanto potenti. È andato in Scozia, ha fatto visita alla Scozia. La Scozia, sapete, aveva votato per l'indipendenza, poi di misura avevano vinto le persone, gli scozzesi che volevano restare nel Regno Unito, ma tutto questo era successo prima del referendum sulla Brexit del 2016, e quindi adesso si è anche riacceso il dibattito. La Premier Sturgeon non manca occasione, non ha mancato occasione nei mesi scorsi per criticare Johnson per come ha gestito il Covid, e adesso Johnson deve un po' recuperare almeno su quel terreno, perché sul fronte Brexit, lo sappiamo bene, i negoziati non stanno andando, in un certo senso anche i negoziati hanno subito il lockdown, probabilmente ci sarà un'uscita senza negoziato. Una delle questioni è la pesca, che interessa moltissimo gli scozzesi, quindi è stato un po' un'offensiva mediatica. Poi è esattamente un anno che Boris Johnson è premier e quindi tutti i giornali fanno anche un po' un riassunto di quello che gli è successo. In effetti gli sono successe alcune delle cose più incredibili che possono succedere nella vita di un uomo, cioè è stato vicino alla morte, si è risposato, ha avuto un figlio, è stato sull'orlo di uscire dalla scena politica e adesso ci sta tornando prepotentemente, quindi insomma un anno vissuto pericolosamente. Un anno di capitomboli per Boris Johnson. Germania, Giulia, so che in primo piano ci segnali questo caso giudiziario importante, Wirecard, e poi? La copertina dello Spiegel titola proprio The Wirecard Thriller, cioè il thriller, il giallo, perché non è chiaro per niente cosa sia successo, se non che mancano più di un miliardo di euro dal bilancio di questa ex fintech dei miracoli. È una cosa che sconvolge molti tedeschi, perché scandali finanziari così non ne vedevano da tanto tempo, e soprattutto perché non è chiaro quali siano state le connivenze, la catena di controllo che ha impedito di scoprire quanto marcio c'era in questa azienda. L'amministratore delegato e fondatore era stato arrestato il giorno dopo lo scandalo, ovviamente il delisting dalla borsa, prima il crollo e poi il delisting dalla borsa, è stato rilasciato dietro cauzione di 9 milioni di euro e 3 giorni fa è stato riarrestato. Probabilmente ci sono anche dei legami politici che lambiscono anche il governo, quindi è una vicenda che naturalmente avrà degli strascichi, e appunto è la copertina di Spiegel. Senti, invece in Francia il ministro dell'economia sui giornali di oggi con parole diciamo di incoraggiamento per quanto riguarda l'economia e i segnali di ottimismo, sì, che ci sarebbero. Non so se c'è l'equivalente in francese, sembra un po' un wishful thinking. Le Figaro titola "È l'ora della speranza per la crisi, dopo la crisi economica". È il titolo a tutta pagina di questa lunghissima intervista, che poi occupa due pagine all'interno di Le Figaro, a Bruno Le Maire, ministro dell'economia, che dice dal settore immobiliare, da quello dell'automotive ed anche delle start-up, perché evidentemente i giovani comunque sono gli unici, forse i giovani imprenditori, che hanno l'energia necessaria da farsi venire ancora delle idee e ancora la voglia di rischiare in questo clima economico, e ci sono dei segnali positivi. Il retroscena di tutto questo è anche che Macron, adesso tornato sicuramente a Bruxelles, ha fatto la figura dello statista insieme a Angela Merkel, però adesso tornato in Francia deve anche lui confrontarsi con gli interessi nazionali e il fatto che la Francia riceverà meno dal recovery fund di altri paesi, dell'Italia per esempio, e non sarà facile far digerire questo ai francesi, dove comunque duramente colpiti dalla crisi. Va bene, abbiamo davvero pochissimi secondi, possiamo congedarci visto che è l'ultima puntata, oppure mi dai la copertina dell'Economist? Dai, Free Money, che forse qualcuno verrà in mente, Money for Nothing dei Dire Straits, sì. Insomma, denaro gratuito, e naturalmente gratuito non è, però gratuito nel senso che sono gli stati, i governi che si stanno indebitando contemporaneamente a livelli che non si erano mai visti. Non ci sono precedenti economici, quindi è un po' uncharted territory, territorio inesplorato. Vedremo, c'è questa ruspa sulla pagina, prima pagina dell'Economist, che sputacchia fuori il concetto, è molto chiaro. Giulia Crivelli, grazie per essere stata con noi durante tutta questa stagione per Effetto Mondo. Ci ritroveremo, immagino, a settembre, immagino, perché non so, tu lavorerai ancora sicuramente, anch'io magari in altre forme quest'estate. Tu che fai? Beh, io sarò qui per la rassegna stampa al mattino. E, insomma, quindi i giornali sono sempre con te, sono sempre il tuo primo. Ecco, quella sì, questa è un'ossessione. Punto di riferimento. Grazie per questa stagione anche a tutti i tecnici di regia che si sono avvicendati oggi con Roberta Frisani, Jacopo De Franchi in redazione tutto l'anno, oggi e spero anche a settembre. Da Alessio Maurizi l'augurio di un buon weekend, una buona estate, e continuate ad ascoltare Radio 24. Ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.